Questionario sulle rendite, parte seconda. 1. Definisci il concetto di rendita annua a rate costanti. È una serie di pagamenti o riscossioni di importo costante che si susseguono ogni anno. 2. Quali sono gli elementi che definiscono tale rendita? La rata, il tasso, il periodo, la durata. 3. Che differenza c'è tra una rendita immediata ed una differita? È immediata se la prima rata viene pagata o riscossa nel primo periodo. È differita se la prima rata viene pagata o riscossa dopo M periodi. 4. Come si definisce il valore attuale di una rendita? È il valore al suo inizio ed è la somma dei valori attuali delle singole rate. 5. Qual è il significato di A figurato N al tasso I? Indica il valore attuale di una rendita posticipata unitaria di N rate al tasso I. 6. Come si calcola il valore attuale di una rendita differita? Il valore attuale va scontato del periodo M di differimento, cioè va moltiplicato per V alla M. 7. Come si definisce una rendita perpetua? È una rendita che ha un numero illimitato di rate. Come varia il valore attuale di una rendita al variare del tasso? Il valore attuale è funzione decrescente del tasso. 9. Come varia il montante di una rendita al variare della durata? Il valore attuale di una rendita è funzione crescente della durata. 10. Come si calcola il valore attuale di una rendita noto il tasso annuo nominale? Si converte il tasso annuo nominale in annuo effettivo, quindi si applica la formula del valore attuale. 11. Che relazione esiste tra V ed U? Il loro prodotto vale 1. Dalla formula del valore attuale di rendita posticipata, come si ricava la durata N? Partendo dalla forma A uguale R per 1 meno V alla N fratto I e procedendo con gli inopportuni passaggi, applicando i principi di equivalenza e i logaritmi, si perviene alla formula finale N uguale log di A per I meno R meno log di R tutto fratto log di 1 più i alla meno 1.